Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Di Cristina Carpinelli. Quello che succede è questo. Noi abbiamo una macchina anonima, però riconoscibile ormai. In strada è riconoscibile, le donne la conoscono. Abbiamo dei volantini scritti in tutte le lingue che presentano il nostro servizio. Viaggiamo di notte su una piccola utilitaria attraversando le strade di Milano dal centro verso l'Interland. Siamo in tre a bordo. Con me ci sono Nadia Folli, che avete appena sentito, e Linda Donini. Fanno parte dell'unità di strada Avenida della Caritas. Fuori dal bar, tabacchi, io che ti abbraccio forte. Il nostro gruppo si chiama Avenida, che appunto vuol dire strada in spagnolo. Ci presentiamo e quindi in qualche modo alle donne nuove noi raccontiamo attraverso questo volantino scritto nella loro lingua chi siamo e cosa facciamo, perché ovviamente all'inizio c'è una grande diffidenza, cioè le donne si vedono avvicinate, sono abituate in strada ad essere avvicinate da chiunque. In strada le donne sono proprio sul marciapiede alla mercé di chiunque. Arriviamo noi e quindi chiediamo il permesso di incontrarle, di poter parlare e insomma di presentarci. Se ci danno questo permesso, diciamo chi siamo, cosa facciamo, raccontiamo qual è il nostro servizio e quindi diciamo che noi da molto tempo andiamo in strada e incontriamo le ragazze che sono sulla strada, ci rendiamo conto per esempio che il tipo di vita che fanno non è facile e ci sono molti rischi, e fondamentalmente ci presentiamo come servizio così di prossimità, di incontro, come se fossimo... Quando siamo solo donne a volte ci sembra che siamo insomma delle sorelle maggiori, delle sorelle, come delle sorelle di un altro paese, non interessate a come le figure che sono solite incontrare, non interessate a loro per nessuno scopo economico, ma ci presentiamo come anche operatrici sociali e volontarie e che possono dare informazioni a loro riguardo. Alla tutela della salute, ma è proprio una tutela della propria salute, una cura di sé un po' più ampia. Molte di loro sono, tra l'altro, straniere, senza documenti, senza tessera sanitaria, e quindi è molto importante avere degli agganci con chi sul territorio conosce centri medici gratuiti a cui si possono rivolgere. Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi. Attraversiamo le vie di Milano dal centro città fino a spingerci in periferie buie, silenziose, luoghi tetri dove nessuno di noi resterebbe neppure un minuto, e invece ragazze di 20 anni restano per l'intera notte. I clienti arrivano correndo come matti sulle loro automobili, sfiorando il marciapiede quando e dove c'è. Attenzione ragazzi. Ciao. See you soon. Bye. See you next week. Le ore corrono, dalle 10 di sera siamo già oltre l'una, per strada ragazze di 20-25 anni, in piedi per ore su tacchi vertiginosi, i visi dolci, lo sguardo curioso, in allarme. Sono prostitute, vengono dall'est, dalla Nigeria, spesso senza una casa, finite in un racket che le fa girare di città in città senza dare loro un appiglio di conforto, un volto amico, un contatto capace di alleviare le preoccupazioni di ogni giorno. Storicamente nelle zone un po' più periferiche c'è sempre stata una più alta presenza di ragazze, di donne nigeriane, che sono proprio un po' storicamente da sempre, come dire, un po' più spostate in periferia, diciamo, addirittura poi anche sulle provinciali, nelle zone proprio fuori Milano. Devo dire che ultimamente, in questi ultimi anni invece, incontriamo ragazze nigeriane anche in città, cosa che prima non accadeva. quando c'è una donna in strada che ha 30 anni, 35, è già una donna che si racconta, si sente vecchia, sicuramente una donna già si sente vecchia per un mercato che solo richiede donne giovani, le richiede anche sempre nuove, quindi in realtà quello che succede è che c'è un grande turnover di donne sulle strade. Noi andiamo in strada, fa conto, dal 98 molte delle donne che incontriamo sono donne con cui facciamo dei pezzettini di strade, di incontri, perché stanno sulle strade, stanno a Milano un mese, due mesi, tre mesi, poi vengono spostate, poi si spostano, poi cambiano, vanno in altre città d'Italia, tornano al loro paese, vanno in altri stati europei. Poi ci sono invece incontri e conoscenze, sì, prolungate con ragazze che incontriamo negli anni, anche 6-7 anni, poi appunto magari poi per un periodo non si vedono, poi ritornano, oppure si rifanno vive perché sono tornate a casa e ci raccontano un po' cos'è questo nuovo progetto di vita, perché succede anche quello. Sì, sì, sì. Quando si crea una relazione come quella che si riesce a costruire un po' lentamente, essendo presenti appunto due volte alla settimana, ma sempre in modo costante, in modo discreto, ma dando una traccia del fatto che siamo presenti, questa cosa dà e consente di costruire anche dei rapporti, per cui le ragazze a volte, anche quando poi percorrono la loro strada, tornano a casa o intraprendono nuovi percorsi, hanno piacere di farci sapere come stanno. Insomma, questa cosa è molto bella. Capita a volte, no? Sì, ragazze sono. Che sono in strada, cioè che non hanno anche proprio la possibilità di giorno spesso di poter andare a avere il tempo, la modalità, le conoscenze per potersi muovere sul territorio, andare a cercare i servizi. Quindi questo servizio di bassa soglia, come esatto, si chiamano, sì, il nostro, in realtà bassa soglia ma grande valore aggiunto, perché credo che sia importante per chiunque, no? Chi arriva straniera in un luogo, oltretutto che vive solo di notte questo posto, e spesso non è nemmeno residente su Milano, ma si sposta magari più avanti, lo racconteremo, fanno pendolari estreme, cioè è importante anche avere la possibilità di avere degli agganci per poter sapere dove andare. Posso chiederti perché hai scelto di fare questo tipo di volontariato? da lunga data. No, questa cosa è un po' particolare perché in effetti è un volontariato che è difficile da capire, perché non è che è esattamente quello classico a cui si è abituati. Però in realtà è una curiosità che ho fin da ragazza, perché dove abitavo io, che è un paesino della provincia di Brescia, in realtà abbiamo vissuto un po' le prime ondate di prostituzione albanese, e da ragazzina io vedevo sul marciapiede, dove la mattina dopo io prendevo il pullman, le ragazze che si prostituivano, che avevano un anno o due più di me, insomma, perché poi io andavo al liceo ai tempi, quindi insomma mi è rimasto sempre un po' questo pensiero, che era più legato alla curiosità di conoscere queste belle ragazze, queste persone, e capire quale fosse, no, il meccanismo che stava dietro rispetto a questa diversità di percorso di vita che stavo facendo io, e mi è rimasto questo tarlo. Poi sono venuta a Milano a lavorare, ho incrociato gli operatori di Avenida e ho avuto l'occasione di iniziare a fare volontariato. Però è un'esperienza bellissima, perché comunque ho avuto, io dico sempre che da bresciano ho imparato a dare ad affrontare anche l'ostacolo di poter pensare di andare per strada a conoscere delle persone, presentarmi, ciao, io sono Linda, cioè noi proprio è lontanissimo dal mio modo, no? E ogni tanto mi immedesimo anche in queste ragazze che sono lì, dicono, ma questi qua, ma chi cavolo sono, no? Cioè è la sfida di riuscire a essere, come dicevo prima, no? Essere presenti in modo discreto ma costante, che paga, perché a volte incontri davvero delle ragazze che percepisci subito che non ti possono dar confidenza, che ti dicono no, vai, devo lavorare, ma percepisci che c'è qualcosa, no, che d'esterno, che le condiziona, che non le consente. E a volte anche solo, non so, dire, ma sì, dai, fumiamoci una sigarettina insieme, e cogli il momento in cui si rilassano e, sì, e capisci che si inizia a costruire una relazione che poi può portare appunto a fornire anche solo informazioni. Cioè la bellezza di questo tipo di volontariato è che non ti sostituisci, ma ti affianchi alla persona, e se c'è la possibilità di dare informazioni, poi lei ne farà uso per quelle che sono le sue risorse, per quelle che sono i suoi bisogni. Questa è proprio un modo diverso di prestare servizio, di prendersi cura, di costruire anche delle relazioni, di prendersi cura di una relazione che è molto effimera, perché tu sei comunque sul lato di una strada con le macchine che passano veloci, devi stare anche un po' così, guardarti un po' anche intorno per capire se, se si muove qualcosa. Eppure la sfida grossa è quella di riuscire ad avere un aggancio. Ci sono delle cose molto emozionanti, cose ridicolissime, degli aneddoti spassosissimi che magari poi mi scaldo e te le racconto. No. Alcuni troppo volgari che non ti posso neanche raccontare. Esatto. Allora aspetta, vediamo se qui c'è Daniela. Ciao. Ciao. Ciao cara. Ciao. Te lo ricordi questo volantino? Ma hai conosciuto la Silvia? Sì. Ecco, me l'ha detto. E prima cosa facevi? Cosa, Romania. Ma tu sei arrivata proprio dalla Romania. Sì. È la prima volta che vieni in Italia o eri rigiovenita? Bene, ah no, senti come parla bene. E dove eri stata prima? Qua, a Milano. Qua. Sì. Ma sempre in strada? No. Questa è la prima volta dopo... Daniela è un nome inventato, ha 26 anni, è una donna che ha già avuto diverse fregature dalla vita, uomini sbagliati quando era ragazzina, un via vai da strade di città europee e italiane, poi per qualche anno si ferma, ha un figlio con un compagno che poi scappa e scompare. Il piccolo resta in Romania con la nonna, lei riparte con l'idea di trovare un lavoro vero e portare in Italia il bambino. Mentre racconta il suo progetto, gli occhi si velano più volte. Sono tante le storie che incontro in questa notte da autunno, piovosa e fredda, storie di mamme lontane come questa che ci racconta Nadia. È una giovane donna moldava che conosciamo da tanti anni, è veramente, guarda, una ragazza proprio super speciale, molto carina, molto attenta, dedicata, educata, insomma molto a modo. E lei ci ha sempre raccontato, è mamma di questo figlio unico, lo sta crescendo da sola e il figlio sta con i genitori. E da sempre, insomma, ci ha raccontato dell'attaccamento e della fatica di stare lontana dal figlio. E quando il figlio ha cominciato ad andare a scuola, appunto, lei ci ha sempre detto che quasi tutti i pomeriggi si connette con lui con Skype e lo segue nella scuola e fa i compiti con lui. E questa cosa, tra l'altro, lei purtroppo è rimasta bloccata qua in Italia anche durante il lockdown, quindi è stata molto dura non essere in Moldavia da lui. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Diario di un giorno, cronache dal sociale. Milano vicino l'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte. Continua il nostro viaggio lungo le strade milanesi e dell'Interland, una notte trascorsa con Nadia e Linda, due educatrici dell'unità di strada Avenida della Caritas, un servizio di contatto e sostegno alle donne che si prostituiscono. Facciamo una mix stasera. Noi andiamo. Avenida, di solito noi facciamo due sere alla settimana, una sera facciamo quella che noi chiamiamo la zona sud e la sera è il martedì o il mercoledì in alternanza. Si fa zona sud e zona nord e stasera facciamo una mix, facciamo perché così vediamo, sì. Prevalentemente ragazze rumene, ragazze albanesi e ragazze nigeriane. Queste sono un po' le tre nazionalità che un po' da sempre, nonostante cambiamenti, fluttuazioni, insomma, ed evoluzioni, insomma, proprio del fenomeno, un po' la fotografia è questa. E quanti anni hanno queste ragazze? Tendenzialmente sono giovani, ci sono tante ragazze che hanno 20 anni, 21, 22, e comunque sono giovanissime. Sì, 19, 21 sono. Sì, sì, sì, sì. Noi ci alterniamo, i volontari cambiano, le operatrici anche, non sono le stesse da una settimana con l'altra, cioè nel senso che sono due ma si alternano sì. Sulle zone. per cui c'è anche un modo di tenere, diciamo così, alcuni appunti, alcuni scritti della serata con le informazioni base che ti vengono date dalle ragazze e che ci trasferiamo all'interno del gruppo in modo tale da poter avere poi gli spazi di aggancio per dare una continuità alla relazione anche se incontrano persone diverse. Io torno a casa la sera e faccio fatica a riaddormentarmi. Le storie a volte ti ronzano in testa, no? Questo tempo in cui noi stiamo con loro lascia qualcosa, assume tutto un altro sapore e davvero, cioè quello che diciamo è come dire, noi seminiamo. Poi appunto, quando si semina in una relazione che per quanto nasca in strada, per quanto nasca così, diventa, cioè quando scatta la fiducia, allora può succedere che poi questa ti lascia qualcosa di importante e può aprire ad altro e può aprire ad altro. Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri, polizia che ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano portata di mano. Una notte, quella che trascorro con l'unità di strada Avenida della Caritas lungo le strade di Milano per ribaltare luoghi comuni sulla prostituzione, perché se è vero, come diceva Basaglia, che da vicino nessuno è normale, è anche vero che da vicino nessuno è poi così diverso, ed è in questa vicinanza che si scoprono possibilità, si creano amicizie che poi diventeranno ganci anche per uscire da certi giri e affrancarsi dalla strada. Di Dio, zucchero e catrame. La vita della strada e i soldi che girano e che nelle tasche anche delle donne, insomma, i soldi che girano in strada con la prostituzione sono soldi che fanno fatica a gestire, e anche quando attraverso un cliente generoso, insomma, riescono ad avere più soldi in tasca, spesso vengono sperperati. Noi abbiamo visto poche donne veramente arricchirsi, non conosciamo tante donne che si siano arricchite con la prostituzione. Ritrovano poi spesso a vivere condizioni che non sono proprio quelle che speravano, e non stiamo parlando di una scelta di prostituzione che è necessariamente scelta in modo, come dire, totalmente autodeterminato, cioè è una scelta che risente anche di vincoli e di vulnerabilità, insomma di storie di vita anche complicate. Prima hai detto che pagano il posto per il marciapiede? Sì, allora, diciamo che le piazze su Milano, come un po' ovunque, ci sono le piazze, le strade dello spaccio, le piazze della prostituzione e di altre attività. Di fatto quello che sappiamo è che la strada e le piazze della le zone della le postazioni della prostituzione sono in qualche modo lottizzate, e sono lottizzate da una criminalità, da chi gestisce queste postazioni e le donne che fruttano soldi in accordo, probabilmente in zone diverse, anche con la criminalità organizzata italiana. Le ragazze ce l'hanno sempre raccontato, insomma, poi qualcuna nega, qualcuna ce lo dice dopo, qualcuna insomma la racconta, però insomma in realtà tante ce lo dicono che hanno lo stare in strada a un prezzo, in qualche modo avere la possibilità di occupare un posto e guadagnarci deve far guadagnare anche qualcun altro. Ci sono molte persone, ci sono molte figure che guadagnano sullo stare in strada di una donna. Compreso chi affitta le case. Chiunque, chi li accompagna, ci sono personaggi, persone che guadagnano dall'accompagnare le donne, da fare insomma, una sorta di taxi tutti i giorni dal posto di lavoro a casa. Ci sono persone che forniscono vestiti o quant'altro, cioè, abbiamo visto, c'è chi fornisce persino all'ingrosso preservativi, insomma ci sono. Nelle storie di tante c'è l'essere venute qua non sole, ma con una persona con cui condividevano o pensavano di condividere un progetto di vita. Un mondo che ha dinamiche dettate dal solo profitto, con numeri che fanno davvero impressione. Nel 2018 il Codacons realizzò una ricerca sui numeri della prostituzione, un mercato che porta a casa quasi 4 miliardi di fatturato l'anno, 90.000 le persone coinvolte in Italia per circa 3 milioni di clienti. Il 60% della prostituzione avviene per strada, il resto via web e in casa. Il 10% delle donne che si prostituiscono è minorenne, mentre il 55% è costituito da ragazze straniere provenienti da paesi dell'est, Romania, Bulgaria e Ucraina, e dall'Africa, Nigeria in testa. Ma c'è anche un'importante crescita di prostitute cinesi che svolgono la propria attività al chiuso. Le donne in strada sono le più esposte, ma anche le meno pagate. Si parla di una media di 30 euro a prestazione. Tutti questi dati diventano storie reali di donne che finiscono per strada per scelta o per ingenuità, andando dietro a un compagno che non si rivelerà tale, come ci raccontano Linda e Nadia. I nomi delle ragazze ovviamente sono i nomi che le ragazze hanno in strada. Poi, spesso le ragazze in strada ai loro clienti, e quindi inizialmente anche a noi, non dicono il loro vero nome, non si presentano con il loro nome, ma si presentano con il nome che scelgono per la strada, difendono gelosamente il loro vero nome. Non è una regola, ma quasi tutte. E quindi anche noi le conosciamo con il loro nome di strada. Poi a volte invece al secondo incontro, al terzo, così, insomma, un accompagnamento sanitario di giorno così, e insomma ti dicono: no, veramente io mi chiamo, e ti dicono il loro vero nome. Ma quindi voi fate anche gli accompagnamenti poi di giorno, sì, nel caso? Sì, sì. Allora, alle donne lasciamo un numero di cellulare e diciamo loro che questo numero è sempre attivo, è sempre acceso, e possono chiamare quando vogliono. Possono chiamare per avere un appuntamento per una visita medica, possono chiamare se sentono il bisogno di avere più informazioni, perché noi per esempio raccontiamo, quando capiamo che è il momento giusto per dire delle cose, diciamo anche, raccontiamo del fatto che in Italia c'è una legge importante, storica, che tutela, protegge e può aiutare una ragazza se decide di non andare, di non stare più in strada, decide di lasciare la prostituzione. Quanto e come è cambiato anche il giro dei clienti? Io immagino che quello che poi noi vediamo sulle pagine di cronaca lo vivano anche queste ragazze, per cui se è vero che per esempio a Milano gira tanta cocaina, c'è tanta gente su di giri, così probabilmente loro sulla strada vivono le stesse paure, la stessa inquietudine. Sì, ce lo raccontano assolutamente. Le donne, cioè, sentono davvero di dover diventare non forti, fortissime, e sentono di dover imparare a essere in grado di difendersi da tutto e da tutti. E questo vuol dire un cliente violento, un cliente che chiede di usare sostanze stupefacenti, un cliente che chiede e cerca di ottenere un rapporto non protetto, perché ahimè, noi succede anche questo, quindi con clienti disposti a pagare di più. Mentre la notte va avanti, scorrono le storie e i visi delle donne incontrate su queste strade, ragazze giovani, spesso finite a seguire l'uomo sbagliato, a volte consapevoli di ciò che avrebbero fatto, ma non coscienti fino in fondo di quanto sia dura la vita di strada. Pamela, 20 anni, ci racconta che la notte prima è stata rapinata da un uomo. Era da sola dietro l'ippodromo di San Siro. È sola anche questa sera. Stiamo con lei per un po'. Ci racconta della Romania, di una possibile gravidanza, di giorni lontani quando era bambina e di un ragazzo che la ama da qualche parte. Puntata termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Potete scriverci a diario@radio24.it. Un saluto da Cristina Carpinelli. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, completa e conveniente, da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.